giochi sul nostro tavolo e alla seconda stagione e sta cercando un giocatore come te che registri la frase iniziale in maniera divertente e carina. Se anche tu vuoi smettere di sentire questa voce orrenda all'inizio del podcast, mandaci una tua registrazione a giochi sul nostro tavolo @gmail.com. Grazie. E benvenuti di nuovo a Giochi sul nostro podcast. Quest'oggi sono io, sempre Federico, immancabile, e abbiamo con noi Stefano, anche lui un grande classico del nostro podcast. Ciao Stefano. Ciao, ciao ciao. Allora, è appena passata Norimberga e quindi come potevamo non fare un podcast su questo evento. È un evento che è molto importante per il mondo dei giochi da tavolo, ma non ha lo stesso riverbero di Essen perché è solo per gli addetti ai lavori. Ci vuoi parlare in genere, diciamo, di com'è questa fiera rispetto, magari comparandola con Essen, per i pochi fortunati che sono stati a Essen, magari riescono a rendersi conto, e così gli diamo un attimo, gli facciamo capire un po' a tutti che cos'è la fiera del gioco. Perché qui si tratta della fiera del giocattolo, non più del gioco, no? Sì, esatto. Sono entrambi in Germania, una Essen e una Norimberga, ma quella di Essen si chiama proprio Spiel ed è esclusivamente per i giochi da tavolo, diciamo. Invece questa è la Spielware Messe, quindi proprio la fiera del gioco da del giocattolo invece che del gioco da tavolo. E quindi, ovviamente, essendo il gioco da tavolo una parentesi del giocattolo, se vogliamo, no? un settore ristretto di quello che può essere, diciamo, tutta l'industria del giocattolo, giustamente anche in questa fiera, che è un po' più per gli addetti ai lavori, è presente una buona fetta di tutti quelli che sono gli editori, diciamo, europei, se non altro, non proprio tutti, ma gli europei ci sono tutti sicuramente. Vabbè, è divisa in vari settori. Io addirittura non l'avevo nemmeno girata tutta l'anno scorso, perché veramente ci sono dei settori dove, se non sei un addetto ai lavori, non saprei proprio cosa puoi farci. Cioè, non so, c'è il produttore di costumi di carnevale, sì. Quindi, cioè, bello, sì, passi, però insomma non è che così entusiasmante. Però ho visto anche molte cose tecnologiche per quanto riguarda i giocattoli, per cui si vedono tutte le novità magari che arrivano così dall'America, dalla Cina. Ci sono queste cose telecomandate, mega droidi volanti e mille cose assurde. Fortunatamente non sono droidi, ma sono droni per ora. Droni, sì, scusi, droni. Ma droidi comincio a preoccuparmi. E quindi, appunto, tutte queste cose che noi da piccoli ci sognavamo, giocavamo con i Masters e basta. E comunque il costume di carnevale è il nuovo elemento di spicco del prossimo gioco della Cranium Creation. No, scherzo. Ok, sì, praticamente, quindi, diciamo, c'è soltanto un piccolo settore dedicato proprio agli editori, insomma, del mondo dei giochi da tavolo. E quello che si fa, siccome è una fiera per gli addetti ai lavori, si vedono i giochi. In realtà si vedono molti giochi che già hai visto a Essen, perché una delle cose che fanno gli editori tra di loro è cercare dei distributori, in quanto ogni editore distribuisce nel proprio paese autonomamente, però cerca sempre dei distributori per poter portare il gioco fuori dal suo paese. E quindi ogni editore ovviamente ha una carrellata di giochi che ha prodotto durante l'anno e dice: ah, guarda, io ho questo, quest'altro. Va magari dall'editore di un altro paese, gli dice: c'ho questo e questo, gli fa vedere, lui dice: ok, dammi questo, lo prendo, questo non lo prendo, questo mi fa schifo. Insomma, sono proprio business talk, si può dire. Sì. La parte, diciamo, che rende forte un editore non è tanto la capacità di produrre giochi, ma anche proprio la capacità di riuscire a spacciare giochi per mezzo mondo, cioè avere, sì, in ogni parte del creato un qualcuno che è pronto a prendere in man bassa i giochi che produce e distribuirli nella sua nazione di riferimento. Sì, esatto. E vabbè, poi ovviamente ci sono partnership che ormai sono collaudate, per cui non so, ad esempio la Coctel e l'Olifante sono praticamente, si conoscono da sempre, quindi quasi tutti i giochi, diciamo, l'Olifante pubblica parecchi giochi di Coctel in Italia e insomma, normalmente c'è sempre un distributore che è sempre lo stesso per quel paese, per cui sai che ogni gioco che esce dalla casa tal dei tali verrà pubblicato in Italia da quest'altra casa perché cioè, hanno sempre questo rapporto diretto, sempre che gli piace, Un po' ovviamente. come Asterion e Asmodee. Esatto, sì, sì, quello è il passaggio successivo, proprio. Mi piace talmente tanto che prendo tutto. Sì, Sì, così. dai, un complimenti e un in bocca al lupo per questo cambio a Luca e a Massi per questo cambio da Asterion Italia a Asterion trattino Asmodee. Asmodee, noi già da Essen, come dire, un po' di anticipo di questa notizia ce l'avevamo avuto, però ecco, l'ufficializzazione è avvenuta solamente a fine gennaio. Luca mi rassicura che è a tutto vantaggio dell'azienda Asterion questo tipo di acquisizione, nel senso che guadagnerà molto potere di fuoco e la Una maggiore maggior distribuzione, distribuzione e sicuramente. soprattutto l'Asmodee vuole capitalizzare questa sua acquisizione portando avanti quello che può essere come dire, la missione dell'Asterion, che è veramente portare il gioco da tavolo nelle famiglie italiane. Quindi, insomma, secondo Italiano, sì. me è un buon segno che una grande realtà acquisisca una realtà italiana, perché vede nel mercato italiano comunque un potenziale ancora magari Sì, inespresso. una prospettiva sì, di ampliamento perché adesso anche, lo noto anch'io veramente in Italia qualcosa si sta muovendo, possiamo dire. Non siamo ancora ai livelli della Germania o della Francia, però piano Ma piano. meglio non essere ai livelli della Germania e della Francia, vuol dire che c'è dello spazio di business per qualche imprenditore appassionato di giochi per poter magari fare la sua piccola casa produttrice, Sì, sì, sì, oh, sì, tutti quelli circola. che possono essere i business legati al mondo dei giochi da tavolo. Quindi bene così. Ok, chiusa parentesi, perché poi ho aperto Sì, questa parentesi. Vabbè, dai, ok, bisognava parlarne, bisognava sì, dirlo. certo. E, beh, tornando alla fiera, ovviamente ci sono anche alcuni titoli che vengono presentati, invece di essere presentati ad Essen, vengono presentati alla fiera di Norimberga, sono titoli che escono solitamente entro marzo, aprile, più o meno. Sono nuovi titoli e di solito, diciamo, guardando un po' quali sono le novità dei vari editori, si può notare che diciamo nella parentesi post Norimberga il tipo di titoli che escono sono molto più family di quanto non sono a Essen, dove ovviamente esce di tutto ad Essen, però qui veramente il tipo di giochi è ad un livello che diciamo un gamer medio dice vabbè, se questa è la roba che esce, insomma, però in realtà anche questi sono giochi diciamo familiari che hanno tutto il loro mercato e anzi è una buona mossa da parte dell'editore farli uscire proprio in occasione di Norimberga piuttosto che riservargli uno spazio a Essen dove veramente non sarebbero nemmeno Calcolati. calcolati, esatto. È possibile che ti è mai capitato di vedere a Norimberga qualche gioco che non ce l'ha fatta per Essen? C'è cioè qualcuno che ha cannato i tempi di produzione e quindi è dovuto uscire a Norimberga perché a Essen non ce la Sì, faceva? succede, sì, succede. Però la cosa interessante di questa fiera è che lì non puoi comprare nulla. Quindi un altro motivo se non sei degli addetti ai lavori, quindi se non sei un designer con dei titoli da presentare, oppure non hai qualche interesse economico nel mondo del gioco da tavolo, cioè ci vai veramente giusto perché non è che ti puoi comprare, ah ok, potete uscire questo, lo compro. No, Eh sì, perché no, quello. non ci sono nemmeno le demo, non è che c'è nessuno che ti si Esatto, no, mette lì a no, spiegarti il esatto. gioco e a fartelo giocare, ti fa vedere dal Rispetto. punto di vista produttivo come è stato fatto, ti può raccontare un po' le meccaniche, ma non. Esatto, dipende molto diciamo, dallo stendista che ti trovi davanti. Alcuni non hanno proprio la più pallida idea di cosa stanno presentando. Io avevo conosciuto un'italiana che era in uno stand francese e le avevo chiesto: ah, ma questo è il nuovo gioco di Catala, per caso sai dimmi come funziona? E lei fa: ci sono delle pedine, dei dadi. Vabbè, molto. Vabbè, gli ho detto: vabbè, guarda, non ti voglio mettere Secondo me l'avevano scelta proprio per in difficoltà. questa sua capacità di riassumere molto velocemente un gioco. Pedine, dadi, buona. Sei presa, ti prendiamo come stendista. Secondo me era quello il Esatto. tratto distintivo della stendista. Soprattutto visto che tu ti Esatto. sei avvicinato, sicuramente deve essere stato quello il tratto distintivo. Esatto. E quindi, no, vabbè. Invece però ci sono altri che magari sono più, magari dei redattori, così, che conoscono magari un po' il gioco che stanno presentando, e quelli magari ti possono un attimo spiegare il funzionamento. Quindi io ho fatto un po' di giri chiedendo qualche notizia su questo o quel gioco, però stavo guardando qui su Board Game Geek la preview che Eric Martin ha fatto delle fiere di Norimberga e di New York, che Sì, sarà a la Toy breve. Fair di New York. Esatto, ma stavo guardando un po' i titoli e insomma, nel senso, sono rimasto un po' così. Vabbè, ma scusa, cioè, in una fiera dove si presentano dei giochi, quindi dei giocattoli, dobbiamo entrare nell'ottica di, per chi è aficionados del podcast e li ha ascoltati tutti, nell'ottica di Fantavir, cioè di Francesco Berardi. Cioè, Sì, certo. nell'ottica della Ah, infatti Clementoni, lui cioè lui. E sicuramente ci è andato nel senso, l'ottica è quella di finire nello scaffale di fianco ai giocattoli da Toys R Us per Sì, l'America certo. e Infatti. Toys per l'Italia. Quindi l'obiettivo è riuscire a beccare, cioè a fare dei prodotti che siano accattivanti non per chi ci giocherà, ma per chi acquisterà il prodotto. Che non è che in questo caso sono due persone differenti, cioè la nonnina, la vecchina va da Toys e prende il gioco da tavolo perché magari si ricorda o perché insomma al concetto di gioco da tavolo magari associa anche dei valori positivi, però gli prende il giochino super semplice e insomma, e quindi deve essere accattivante dal punto di vista della nonnina, non deve essere accattivante dal punto di vista del giocatore. Poi se c'è un gioco dentro, oltre alla scatola, non è male. Sì, e poi tra l'altro la particolarità ad esempio di Clementoni è che adesso non ha uno stand, mentre a Norimberga sì. È certo. E quindi, cioè, per capire, siccome il target proprio delle due fiere è diverso, è normale che ritrovare la Clementoni lì e non adesso, dove invece. Stefano, visto che abbiamo parlato anche, insomma, dal punto di vista se si è un game designer, cosa bisogna fare per andare ad Essen e vogliamo fare anche un po' il confronto con Norimberga, perché secondo me invece io nel tempo mi sto rendendo conto che forse Essen è la fiera sbagliata per andare a presentare i propri giochi. Ma in realtà, cioè, posso dirti, io ho avuto dei colloqui ad Essen e tutti davano per scontato che venissi anche a Norimberga, come se fosse: ma sì, allora ci vediamo a Norimberga, fai quest'altro cambiamento, poi ci fai sapere. È un attimo, non è così scontato che posso venirci, insomma. E quindi sì, diciamo che ad esempio gente come Walter, Robert o Lanzavecchia, loro presentano i giochi sia ad Essen che a Norimberga. Anzi, a Norimberga molto spesso qualcuno firma anche Quello che si è dei presentato a giochi, Essen. quello che si è presentato a Essen, o magari quello che si è presentato all'Essen dell'anno prima ancora. Perché Cavolo. sì, vabbè, è un processo lunghissimo. Quindi, da una parte dico agli aspiranti autori di non scoraggiarsi per i primi fallimenti, e neanche se sembra di essere ad un impasse. Quindi. Però, diciamo, se potete permettervi di andare a Norimberga, che tra l'altro è una fiera per addetti ai lavori, ma pagando si può entrare. Faccio Ah, questa. ok, Ok? quindi. Quindi sì, cioè, nel senso, se sei un addetto ai lavori, avrai il tuo pass e entri Come si tranquillamente. diventa addetti ai lavori? Cosa devo millantare? Tipo, se sono dei giochi E sul nostro tavolo, sono addetto ai lavori? Come stampa? allora, puoi avere sì, come stampa, puoi avere qualche ingresso. Se hai fatto un gioco, mi pare che. Puoi portare, insomma, la prova che hai fatto questo gioco, e dovrebbero anche lì darti Cioè, il se sei pass, oppure se l'autore di un conosci. gioco che viene presentato durante Norimberga. Oppure sì, oppure un autore che ha già pubblicato, diciamo, dici io sono un autore, quindi sono un detto io Ah, noi, tra parentesi. ok, chiaro. Quindi se hai un gioco già pubblicato, puoi dire ho pubblicato questo gioco, fatemi andare, vabbè, così. Oppure se conosci un editore che ti dice vabbè, ti trovo il pass. Vabbè, quello sempre. Io ad esempio avevo fatto così. Vabbè, ma tu non hai pubblicato un gioco quest'anno con Cocktail Games, quindi ci saresti Sì, potuto però andare. non era ancora uscito, Ah, quindi ok. insomma abbiamo fatto così. Sì, ti sei fatto fare il pass Cioè, dalla Cocktail. esatto, dalla Coppa, esatto. E vabbè, comunque in realtà pagando si può andare, quindi sono meno preoccupato cioè, pensavo veramente all'inizio, quando sono andato, veramente credevo che non si potesse andare. Diversamente, invece pagando si può entrare dappertutto, come è È giusto che una, sia. diciamo, diretta metafora della realtà, è un po' più Sì. ad ampio respiro. Pagando si può entrare un po' ovunque. Anche perché devo dire, quando sono andato lì, che ho visto tutti questi bambini, dicevo, ma questi che addetti ai Ah, lavori sono? cavolo, vedi, io Ok, quest'anno ho rinunciato proprio all'idea di programmare per andare, proprio perché nel sito c'era scritto che era vietato ai minori di 16 anni. ma secondo me lì qualcuno aveva, insomma, qualche pass particolare, non lo so, tipo era figlio di Noi qualcuno pensavamo di di andare importante. con tutta la famiglia, quindi riuscire magari a fare più tipo gita nel mondo dei giochi, dei giocattoli più che dei giochi, mentre io magari stavo lassù a presentare qualche gioco e l'abbiamo completamente cassata come idea proprio perché cioè, sul sito c'è scritto proibito ai minori di 16 anni, che ho detto vabbè, oh, ci sta, è una fiera. Sì, perché poi toccano tutto, non so come dire. Lì ci sono tutte le cose, sai. Ah sì, ma mia figlia sarebbe venuta per Prototipo. toccare tutto, mica per E guardare, basta. beh, ci mancherebbe. Sì, in effetti è un po' crudele che non possano entrare i bambini Invece tu a però, una fiera di giocattoli. quando sei Però andato, tu li hai sì, visti. li ho visti. Ma non so se erano tipo, sai, a volte Figli fanno questi. degli standisti. Tipo, no, ma in realtà a volte fanno queste cose su YouTube dove intervistano questo e quest'altro giocattolo e fanno fare queste cose ai bambini perché fa Ah, molto a sì, tema, chiaro, chiaro, chiaro. diciamo. E quindi erano questi qui, Erano tipo, che avevano la beceri maglietta con strumenti di marketing. esatto. E quindi, ti piace questo gioco? Ah, bellissimo, è il gioco più bello del mondo. Cioè, no, queste cose qua. Serve un bambino con Ah, sicuro, entusiasmo finto sì. per spingere un prodotto. E quindi, boh, così. Quindi veramente è una fiera molto grande, ma in realtà se vi interessano solo i giochi da tavolo, girarla tutta è veramente un attimo. Ah, Ci sono ok, quindi sì, sono tutti tutti raggruppati lì, non è che te li devi andare a raggruppati trovare da lì. qualche parte, cioè non sono Esatto. sparsi. Esatto. Quindi forse per un autore di giochi è più comodo anche per questo, nel senso che è tutto molto più in piccolo, non ci sono diciamo, i clienti, quelli che provano i giochi, tutta la ressa che trovi a Essen. E quindi Magari forse c'è anche un po' più tempo per provare il gioco. un minimo più gestito. Ah, sì, mi sembra. Addirittura leggevo che vabbè, dura una settimana sta fiera. Ah, cavolo. E vabbè, la maggior parte di gente ci va il sabato e la domenica. Però diceva, ci sono dei giorni che vai e non c'è nessuno. Cioè, nel senso, se tu ti programmi e dici ok, dammi l'appuntamento il martedì alle 4, vai, cioè, sei tu e basta. Cioè, veramente. E quindi parli. E poi veramente, insomma, hai tutto il tempo del mondo Sì. di far presentare i giochi, tutto quanto, Mi quindi. convince sempre di più come alternativa adesso, ma ti spiego per quale motivo sono molto interessato a sapere queste cose legate agli editori, perché in realtà quest'anno qui, che è il primo anno in cui io ho fatto veramente la staffetta da un editore all'altro per presentare non un gioco, ma tre giochi nell'arco di un'ora agli editori, è stato molto molto peso dal punto di vista proprio del lavoro effettuato. Cioè, praticamente ogni 2 ore facevo la presentazione di tre giochi in inglese a una persona differente. E per 3 giorni di seguito diventa impegnativo. Non mi sono goduto per niente la fiera di Essen, che a sto punto, Vabbè, sì. cioè, a sto punto non ci vado nemmeno, insomma. E vado direttamente a Norimberga, c'ho più tempo, c'ho più relax, se possiamo prendere un momento per farci una partita invece che doverlo spiegare, basta, e far E capire. ti ricordi 2 anni prima che invece eri venuto come diciamo giocando, avevi fatto tutte le demo e tutto, che io ero con voi per ogni momento Sì, dovevo so ci quello, quell'altro, hai abbandonato purtroppo praticamente tutta la fiera tutte le perché sei andato in giro a volte. presentare, ma è quello che ho fatto io quest'anno. Sì. Ma io beh, spero di riuscire a farlo anche, cioè di continuare a farlo, però boh, insomma è vero che se una fiera da cliente va fatta, nel senso se godersi proprio anche le demo e tutto quanto è Ma interessante. invece Quindi giochi in particolare che sono usciti a Norimberga quest'anno, che tu so che sei sempre super informato anche sui giochi che escono alle fiere cui non vai, quindi. sì, allora c'è. La cosa interessante, ci sono due giochi che sono stati al premio Archimede, che non so se ne abbiamo parlato, il premio, beh, lo sai benissimo, parlo a te, però parlo anche al nostro pubblico a casa, è una, insomma, manifestazione per game designer organizzata da Leo Colovini di Studio Giochi, ogni 2 anni, e in pratica gli aspiranti autori di giochi e anche gli autori già conosciuti, perché non c'è limite, possono partecipare anche gli autori che già hanno pubblicato, presentano al concorso i loro giochi, questi vengono valutati, un tot finiscono in finale, tra parentesi, e poi quelli che vanno in finale, poi viene fatta una votazione, alla fine insomma sì, qualcuno vince, e così. E comunque la cosa interessante è che quest'anno esce per Abacus Spiele Cacao, che è un gioco di Phil Walker Harding, che è un australiano, e che ha la particolarità di aver vinto il terzo posto al premio Archimede del 2010. Questo di nuovo per dirvi che non è che pubblicare un gioco è una cosa che dice ok, ah, il gioco è fighissimo, allora lo Cioè, facciamo. siamo nel 2015, Eh 5 anni da sì, quando tu hai presentato il tuo gioco, 5 anni dopo esatto. viene pubblicato il tuo giochino. Cioè, considerate che ovviamente nella giuria del premio Archimede ci sono tot, diciamo, addetti ai lavori di varie case editrici, molte sono case editrici tedesche, c'è anche qualcuno di Abacus Spiele, che è un editore tedesco. Quindi quello che sarà successo è questo: hanno vinto questi giochi, oppure sono arrivati i primi 10, sono questi, di solito, boh, magari poi non è detto, può essere anche che uno ha visto il 20° post, fa sto gioco è fighissimo, lo voglio assolutamente. Quindi la classifica tra virgolette è relativa, però è ovvio che i giochi che sono più in alto sono diciamo sulla Ma poi carta più vengono anche giocati di interessanti più. per l'editore. Sì, certo. E quindi quello che è successo semplicemente è che vabbè, c'è una clausola da dire. Quando ti iscrivi al premio Archimede, tu sei praticamente il gioco che proponi è come se fosse sotto l'agenzia Studio Giochi, per cui non sei più tu singolo che propone il gioco agli editori, ma è l'agente Studio Giochi che propone il tuo gioco agli editori. E quello che cambia è semplicemente il fatto che le royalties che prendi sono divise La con metà. il tuo agente che ha fatto il lavoro di presentarlo, diciamo. Ma va bene, ci sta, perché non tutti hanno il tempo e la voglia di andare, insomma, per fiere a fare il venditore di se stessi, no? E quindi boh, ci sta che ci No, il stia pure lavoro qui. va retribuito come è giusto che Esatto. sia. Poi in più consideratevi tipo questo tizio che viene dall'Australia, ciao. Cioè, che sbattone deve farsi per far vedere i suoi giochi. Quindi, insomma, semplicemente ha mandato il gioco per posta al concorso, poi insomma è arrivato terzo. L'Abacus si è detta interessata, hanno fatto disfatto perché poi lo provano, lo cambiano, no, questo non mi piace, bisogna fare così, cosa, e dopo 5 anni finalmente abbiamo questo gioco che si chiama Cacao ed è un gioco di piazzamento tessere che ha a che fare con la produzione di cacao, insomma, quindi Boring. molto è molto euro, diciamo, molto German come tipo di gioco, e quindi Ma è boh, tipo un insomma, me lo astratto? Cioè, conoscendo l'Abacus, pubblica quasi dei semi astratti, quindi insomma. È tipo un astratto oppure il tema si sente e sta cosa del cacao non è appiccicata sopra? O è appiccicata invece? Insomma, è una gestione di lavoratori tramite piazzamento di tessera, per dirti. E quindi Sento non puzza so se di tema appiccicato sopra delle meccaniche. comunque, Però, vabbè, la cosa non dobbiamo interessante, giudicare prima di giocare, quindi mi riservo di giocarci. Se qualcuno ce la cosa l'avrà, io mi proporrò come giocatore. La cosa interessante è che, ad esempio, sul sito Studio Giochi è possibile vedere la foto dei prototipi di ogni anno. C'è l'albo d'oro insomma, di chi è stato nominato, e c'è sempre la foto dei singoli giochi, come sono stati presentati, e quindi si può vedere l'evoluzione che ha avuto dal prototipo al gioco finale. E devo dire che, cioè, il prototipo era veramente, cioè, era terribile per i daltonici, cioè, nel senso, era una cozzaglia di colori inguardabile. Non so come hanno fatto a giocarci senza avere degli attacchi epilettici. Quindi vabbè. E quindi vabbè, vabbè, tra dai, l'altro si vede è una che cosa... il gioco era buono, dai, se sono riusciti a superare anche questo impasse di daltonia. Sì, perché come avevamo detto l'altra volta, insomma, presentare un prototipo che abbia anche una certa sua, no, insomma, che sia decente da giocare, senza che non crei problemi il modo in cui l'hai fatto, insomma, è molto meglio, insomma. Il gioco può essere bello, sì, o brutto, sì, sì, assolutamente. Se è ingiocabile a livello materiale, proprio perché hai sbagliato qualcosa, qualche scelta grafica o di ergonomia del gioco, io diciamo. Odio dover ammettere questa cosa qua, ma purtroppo il gioco deve essere un pochettino già preprodotto dall'autore per riuscire a dare all'editore un'idea di quello che potrebbe essere il risultato finale, e soprattutto per non incappare appunto in queste difficoltà legate proprio all'ergonomia del gioco. Io la odio questa cosa qua, perché mi obbliga a fare una cosa che di solito non amo, cioè fare la parte grafica, fare la parte fatta bene del prototipo, quando a me, cioè, io giocherei con i fogli scritti a penna, però... Sì. Beh, abbiamo già detto che il capo dei prototipi brutti è Paolo Mori è il dio dei prototipi appena... Anzi, guarda, recentemente me ne ha fatti vedere un paio che mi sono stupito, guarda. Ho detto, socia Paolo, hai trovato qualcuno che ti fa i prototipi belli al posto tuo? Ho detto, bravo, hai capito. Perché io, fosse pensato per me, non li avrei fatti. Vabbè. Poi un'altra, vabbè, come sapete, Hansim Gluck è uno degli editori preferiti da Fabio, e anche lui pubblica pochissimi titoli all'anno, e quest'anno pubblicherà un gioco di Simone Luciani e Daniele Tascini, noti, che anche noti questo, per noti per Zolki, bravo, hai studiato. Studiato, grazie, che anche questi hanno vinto come al primo posto il premio Archimede 2012. Quindi questi con Marco Polo. Con Marco Polo, si chiama Auf den Spuren von Marco Polo, sulle tracce di Marco Polo. Sì, sì. Una specie di, immagino, Scotland Yard. No. Probabilmente più simile a un gioco che è uscito dalla Z-Man, che si chiama Silk Road. Ma tu sei stato nel 2012 alla premiazione? Alla premiazione, no? sì, però non avevo partecipato, okay, con dei giochi. Io in realtà non ho mai partecipato con dei giochi al premio Archimede quest'anno, perché non volevo dare il 50% a Colovini di alcuni giochi che mi piacevano. E la versione precedente, proprio perché non avevo nessun gioco da presentare. Sì, la cosa interessante è che lo fanno ogni 2 anni, quindi uno, cioè, per me la cadenza giusta, sì, anni. Bravo. Sì, esatto, perché tutti gli anni sì, monta ci anche sì. Più aspettativa, sì, ci sta. Sì. È giusto, è il giusto ritmo. Va bene, io e te, Stefano, inevitabilmente ricadiamo sempre a parlare un pochettino di game design. Sì, abbiate esatto. Pazienza, quando siamo io e lui ci sfoghiamo, poi parliamo di giochi da tavolo editi da qualcun altro e inventati da qualcun altro, quando poi c'è anche Alan e Fabio. Che li disegna, ricordiamo. Esatto, infatti. Infatti, guarda, solo Fabio è il purista. Sì, Fabio, esatto, Fabio li gioca, e li gioca anche bene, nel senso che è molto forte. Sì. Sì, e, sì. Va bene, io direi che abbiamo raggiunto, diciamo, il limite di accettabilità come tempi, parlando solamente di una fiera di giochi da tavolo, anzi di giocattoli, sì, per la precisione. Quindi saluterei tutti quanti ringraziandoli, sì, dell'attenzione. Se vuoi aggiungere un'ultima cosa, t'ho sentito che vuoi dire qualcosa. Sì. Sì, allora, vabbè, ci sono delle cose che mi hanno particolarmente colpito. Allora, Catan, prima notizia, farà una versione portatile di Catan. E va bene, questa è una prima notizia. Wow! Magari. La seconda notizia è che uscirà Carcassonne Star Wars. Ora, vabbè, Questa notizia mi quindi lascia più che basito, cioè non so proprio cosa dire. Devo essere felice, devo essere... Non so, è un no, po' boh, come cioè. quando ho visto per la prima volta la spada laser che con le due spadine laterali che usciva a croce, no? Non, insomma, non Esatto, sì, sapevo beh. che, se essere contento oppure se piangere oppure non lo so. Quelle cose tipo Carcassonne, Star Wars. Ok, Esatto, e che devo. concludo con una nota positiva che mi fa molto ridere. Uscirà per la Cosmos un gioco che si chiama Alles Banane, dove il gioco è questo: ci sono delle foto con diciamo, delle Allora, hai attività da detto fare. banane e Delle... foto, già qui cominciamo proprio una virata No, no, poi. no, aspetta, aspetta, ci sono delle foto con delle attività, tra virgolette, degli oggetti, dipende, e tu devi mimare questi oggetti o queste attività con una banana di legno. E praticamente tra le attività c'è tipo il ping pong, la pesca, che ne so, qua c'è giocare ai videogiochi, Cioè, guidare la macchina, e fondamentalmente quindi... è sulla falsa riga dei vari giochi fatti da Walter Robert, dove tu hai, cioè, il gioco è un pretesto per fare il deficiente e far ridere gli altri. Esatto, E questo non ha nemmeno la velleità di dirti ti faccio fare qualcos'altro, no, semplicemente ti metto una banana di legno in mano e tutto, è tutto più divertente con una banana di legno in mano, quindi qualsiasi cosa tu fai, se la fai con una banana di legno in mano è ancora più... spassosa, bah. però ragazzi, costerà 10 euro. Io lo dico, quando posteremo questo podcast, se sotto il blog mi scrivete chi vuole avere questo gioco a tutti i costi, io vi prometto una spedizione per tutti, perché veramente questo è il gioco del Ok, quindi secolo. alla modica Grazie. cifra di 10 euro più spedizioni, Stefano Questo vi Alles spedisce Banane. alle sbanane e non vediamo l'ora, guarda. Oppure potete giocare con una banana vostra, via, Qui, una è qui, cichita. i doppi sensi, sì, nemmeno sono doppi sensi, sono sensi unici, cioè c'è stato il cambio del traffico. Vabbè, dai, cioè, mi fa piacere che mi hai interrotto mentre salutavo proprio per dire questa serie di cose, proprio Ah complimenti. no, vabbè, una cosa importante, diciamo, ci sono anche dei titoli che sono usciti a Norimberga che sono di autori italiani, almeno quelli citiamoli. Vai, spara. Allora, c'è un gioco di Walter Robert e Carlo Emanuele Lanzavecchia che si chiama, non ho idea. È un gioco di un draghetto che ha la particolarità di accendersi con un sistema molto furbo che non vi svelo, che vi invito a scoprire. Praticamente si muove sulla plancia e a un certo punto si accende. Lo scopo del gioco è scoprire in quale punto si accende. Semplicemente. Cioè, ho fatto una breve un riassunto del gioco, però insomma, l'idea è questa. Quindi questo è il primo gioco di Walter Robert e Carlo Emanuele Lanzavecchia. Poi abbiamo un gioco di Carlo Rossi Non poteva mancare Carlo Rossi, ragazzi. Carlo Rossi, io penso che sia l'autore italiano sì, il più bravo, più anch'io. bravo, più prolifico e più sottovalutato che c'è in Italia. Perché purtroppo Ma lui perché... pubblica Ma... solo per roba per bambini, ma è veramente tutta bella. Cioè, no, io ho avuto la fortuna di fare una domenica di playtesting con lui. Ha tirato fuori solamente delle chicche stupende. Vabbè. Sì. Beh, lui è della scuola di Leo Colovini, quindi insomma ha imparato bene, diciamo. E ecco, un altro gioco suo, appunto, è appunto Licenziato John Deere, quello dei trattori, non so se avete Ah, presente, sì, me ne trattori aveva John Deere. parlato, sì, ma aveva postato qualcosa su Facebook. Sì, esatto, c'è questo trattorino che viene buttato giù da una discesa e dove si ferma raccoglie le verdure, insomma, sì, è un gioco per bambini, però... Al suo perché. Complimenti a lui, Se sì, perché... avete modo di prendere a poco prezzo, ma anche a prezzo pieno, un gioco di Carlo, prendete Der Schatz von Castellina, è stupendo. È Sì, veramente super bello. confermo. E quest'anno ce l'avevano a 5 euro al box giallo. Vabbè, e l'hai avuto, ovviamente. Istabai. Esatto. Ok. Va bene, ragazzi, dai, veramente ci Quindi siamo dilungati dilungati. oltre il dovuto. Grazie per l'attenzione e Grazie. ci becchiamo alla prossima puntata di Giochi sul nostro podcast. Ciao da Federico. E da Stefano. Ciao, Ciao. ciao, ciao.